Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti. A tutti e a tutto. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sì, ci scaldiamo. E eccoci qua, quindi come ogni domenica, rompiamo il silenzio, come ogni domenica, come ogni domenica, ogni 3-4 domeniche, l'arte del vizio. Ebbene sì, interrompiamo le non dirette su Radio Wombat e ritorniamo con una nuova spumeggiante puntata. Ecco, diamo un po' di spuma. Reverendo alle musiche, il dottore ha i tastini sul mixer e tre bellissime ospiti. Nuovi, tutti nuovi quest'anno. Palmiro, ci manchi. Sappiamo che ci stai ascoltando. Buonasera a tutti. È stato sostituito degnamente Palmiro. Sarà contento, secondo me. Allora, un inizio di stagione spumeggiante. L'arte del vizio questa sera è l'arte dell'orifizio. Orifizio. E vi spiegheremo cosa consiste, in cosa consiste questa cosa. Presentiamo subito l'entità. L'entità con noi qua, a Frittole. Avete appena sentito la voce di Genge? Genge. Sbaglieremo tutti gli accenti. Assolutamente sì. Un altro accento importante Dracula. Dracula. Ciao Dracula. O Dracula. Come preferisci. Dracula. Ciao Dracula, per i più attenti e le più attente, non è una voce nuova. Indovinate. Indoviniamo. È in veste nuova. Nuovissima. Dobbiamo alzarti il volume. È una voce troppo ammaliante. Ammaliatemi. Ammaliaci. Amalia. E l'ultimo ospite. Amaci. L'ultimo ospite di questa sera chi è? C'est moi, Bright. Oh, Bright. Ciao Bright. Ciao. Benvenuta. Grazie. Allora, dai, giusto per due parole di rito, siete in ascolto su Radio Wombat, radio liberata di Firenze e dintorni. Potete ascoltarci su radiowombat.net o nella M, nell'etere vero, al 13,59 kHz, chi lo sa, ripareremo l'antenna forse. Questa è l'arte del vizio, nel caso non l'aveste ancora capito, stagione 2. E potete scriverci quando volete a frittole@gattini.ninja. frittole@gattini.ninja. Questi sono i Frittole Studios. Vogliamo le vostre opinioni, i vostri feedbacks. Dove possono trovare il pad le persone all'ascolto? Ah, il pad, mamma mia, bisogna andare sul sito di Wombat, che è radiowombat.net, poi cliccare nel menu, che è tipo, è un menu tipo come ascoltarci, una roba del genere, e lì c'è il link per la diretta Wombat, anche lì potete scriverci assolutamente. Persone all'ascolto, verranno fatte domande in studio, vogliamo le risposte di chi ascolta. Sì, infatti. Beh, vogliamo anche le domande di chi ascolta, nel caso. E altro da dire? Altro da dire? Niente, questo è quanto. Arriviamo al succo. Dici? Subito? Perché no? Dici. Indugiamo. Questa sera parleremo di orifizi, come si può dedurre dal titolo. Ma innanzitutto, cos'è un orifizio? Ci siamo profondamente, ampiamente, largamente informate su questo termine. Andando su treccane.it potete farlo anche voi. L'orifizio o orificio, dal latino tardo orificium, derivato da os oris, bocca, efficium, ficio, propriamente cosa che fa da bocca. Questo è un elemento inedito. Per fortuna il latino ci dice tante cose. E nel suo primo significato c'è stretta apertura all'estremità di un canale o praticata in una parete sottile, soprattutto per il passaggio di un fluido, ad esempio l'orifizio della cannella. Cinnamon. In idraulica. Cinnamon hole. The orifice. In idraulica è sinonimo di bocca. E nella tecnica mineraria l'orifizio equivalente è una grandezza convenzionale con la quale si studia la resistenza che il complesso dei condotti di una miniera o una parte di essi oppone alla circolazione dell'aria. Ah. Tale grandezza è misurata dalla superficie di un foro circolare praticato in una parete sottile che lascia passare una portata d'aria uguale a quella che circola nei condotti in esame quando tra i lati opposti della parete venga applicata la stessa differenza di pressione che sussiste tra l'imbocco e l'uscita del complesso dei condotti stessi. Reverendo Piero Angela degli Orifizi. o quale ci interessa di più? Ci interessa di più il secondo significato, che è in anatomia apertura che serve di sbocco o di comunicazione ad un determinato canale o cavità. Indovinate che cavità? Ad esempio troviamo l'orifizio anale, apertura di sbocco dell'intestino retto, o orifizio atrio-ventricolare, apertura che fa comunicare ogni atrio del cuore col ventricolo corrispondente. A voi la scelta. Abbiamo un orifizio interno non accessibile. Grande così. È un orifizio accessibile con cui si possono sperimentare tanti accessi. E quindi accediamo a questo argomento che ci accomuna un po' tutte e tutti. Fottimi il cuore. Allora, io manderei giusto uno stacchettino musicale profondo per continuare questa con dolcezza scivolare dentro questo argomento, perché poi alla fine arriveremo alle vere tamarrate. Assolutamente. No, ma ho sbagliato, vabbè. ritorniamo così in diretta come se non ci fosse un domani. E niente, aspettando che parta un altro pezzetto dal nostro tappeto, che non tarderà di certo. Ci hanno scritto sul pad, facendo immagino dei complimenti alla nostra Genge, dicendo ci sono i fans all'ascolto che supportano. Sì, siamo ampiamente coscienti di aver fatto un grande acquisto, ma purtroppo forse non si fermerà con noi sempre, perché lei vorrebbe fare una sua trasmissione, no? È il momento della marchetta. Partiamo con la marchetta. Si spoilerà così, eh? Ambizione. Rimanete sintonizzati su Radio Wombat per le nuovissime novità. Prossima trasmissione di Genge. Davvero speriamo di averti qua sempre e spesso, assolutamente, soprattutto a parlare di queste cose. Ma quali cose? Quali cose? Addentriamoci. Addentriamo con un po' di lubrificante. L'argomento, uno degli orifizi più amati, ma non solo, soprattutto il più comune, in quanto tutti siamo dotati di un culo. Ebbene sì. Cosa ci accomuna? Ci accomuna il culo. Io farei una domanda alle persone in ascolto: quante volte pensate al vostro culo? Fateci sapere, care entità all'ascolto. Per scriverci sul pad dovete andare sulla finestrella contatti sul sito di Radio Wombat. L'abbiamo scoperto ora, lì troverete il pad. Grande professionismo. Alla diretta. E va bene. Allora, noi per parlare del culo, a parlare dell'ano, oltre ad andare su Wikipedia. Grazie, reverendo. Dice le cose che potete leggere su un libro di scienza. A me è interessato tanto il fatto che c'è il paragrafetto dedicato all'origine dell'ano. L'origine storica. Sì, ma così pare. E, se volete, ve lo dico un attimo. Lo sviluppo dell'ano è stata una tappa importante nell'evoluzione di animali pluricellulari. Ci avete mai pensato? No. Quante cose si scoprono all'arte del vizio. In effetti sembra aver avuto successo almeno due volte, seguendo percorsi diversi nei protosomi e nei deuterosomi. Non chiedetemi cosa sono, se no si apre un'altra parentesi. Comunque, questo è stato accompagnato da altri importanti sviluppi evolutivi: il piano a simmetria bilaterale del corpo, il celoma, che è una cavità interna che ha fornito lo spazio per un sistema circolatorio, e in alcuni animali ha formato uno scheletro idrostatico. E va bene, poche parole, nei deuterosomi l'ano si forma dal blastoporo, lo sapete, all'inizio della gastrulazione. Nei prostatomi l'ano si forma in una fase successiva dello sviluppo embrionale. Sappiatelo. Sì. Non chiaro, fa una, no? Piega. È tutto chiaro. Grazie, Bright. Quindi il modo in cui caghiamo ci definisce evoluzionalmente parlando. Sì, noi siamo deuterostomi, sappiatelo. Sentiamoci deuterostomi. Esatto. Voi vi sentite deuterostomi? Io potrei accogliere questa sensazione. Mi risuona. Ti risuona, Dracula? Sì. E che suono fa? Un canale di forma grossolanamente cilindrica, lungo circa 4 cm, con decorrenza dall'alto verso il basso e dall'avanti all'indietro, angolato rispetto al retto con un angolo di ampiezza di circa 90 gradi. È una dimensione incredibile quella anale. Veramente sì. Per parlarne in maniera un po' più approfondita, abbiamo scaricato un opuscoletto dal noblogs, che si chiama anarchoqueer.noblogs.org, che vi invito assolutamente a visitare come sito. Poi lo metteremo tra i link allegati al podcast. E, abbiamo trovato questo opuscoletto che si chiama Prenderlo in culo o no. punto di domanda. È questa la questione. E secondo me Dracula ha posto una domanda fondamentale. Perché no? Allora, il punto è che il culo è da sempre, insomma, un punto abbastanza focale di tutta la riflessione sulla sessualità, ma non solo. In quanto bene comune. Assolutamente. Non so, volete dire altro o vi leggo un'altra... Deliziaci. Un altro estratto? Leggici qualcosa. Ok. Con una voce suadente. Vabbè, io ho estratto... mi è interessato questa domanda. Perché poi la sessualità anale, ricettiva, non dovrebbe essere una possibilità di piacere che riguarda tut, visto che fino a prova contraria a tut possediamo un ano? È la grande domanda che ci siamo posti all'inizio. E qua siamo ancora all'introduzione dell'opuscoletto e ci dice che spesso il pregiudizio è talmente accecante che porta a una chiusura a priori nei confronti della possibilità di un'esperienza. E lo scopo di questo opuscolo non è tanto invitare chi non ha mai fatto a sperimentare nuove forme di piacere sessuale, ma è soprattutto far riflettere su quanto la nostra sessualità sia repressa e ben lontana da raggiungere le sue ricche potenzialità, finché non ci sbarazziamo una volta per tutte dai pregiudizi e dai retaggi misogini, omofobi, transfobici legati ai ruoli di genere tradizionali. Qua andiamo già sul serio. E comunque qua c'è una lunga citazione che dice: l'uomo, il maschio, è attivo, per definizione, no? Deve essere per forza. Tutto ciò che rimanda o allude alla passività, considerato un ruolo e un'attitudine femminile, va bandito o viene usato per offendere. Quindi, nel parlato, essere stati presi per il culo è ammettere un'onta. Tradotto alla lettera vuol dire non essere riusciti ad evitare che qualcuno ci oltraggiasse sessualmente. Ci rendesse passivi. Esatto, eccolo là, il punto debole del maschio, il culo. Quella parte anatomica che, trovandosi dietro di noi, non può essere sorvegliata a vista. Nondimeno va strettamente salvaguardata per evitare che venga violata. Presi alle spalle. Ed è per questo che, mentre il rotto in culo è l'essere più infimo e disgraziato che ci sia, il paraculo è invece il top. Il paraculo riesce a pararsi, a proteggere la terga da ogni insidia, da ogni trappola, in maniera abile. E fa anche di più. Con la sua accortezza e furbizia lo mette in quel posto, dunque sempre là, agli altri. Portiere e attaccante del retto anale. Il paraculo, insomma, non si fa oltraggiare sessualmente, ma oltraggia se gli conviene. Più maschilista di così. Il culo viene anche associato alla fortuna, e sempre in senso ingiurioso. È la fortuna degli altri, quella che non tocca mai a noi. Dire che il tale ha avuto culo vuol dire che le cose gli sono andate bene, ma l'espressione nasce da un'allusione, o forse è un'illusione consolatoria. Per raggiungere quel risultato, costui ha concesso il proprio lato B a chi doveva favorirlo, una fortuna dunque pagata a caro prezzo. Caro, carissimo. Quindi, se ci fosse ancora bisogno di dimostrare il discredito e il biasimo che accompagna la presunta violazione del culo, rappresentazione della passività più estrema, si pensi al vaffanculo. Quando vogliamo insultare qualcuno in maniera pesante e definitiva, questa espressione sintetica. Questa frase considerata, condensata in una sola parola, che ci sale automaticamente alle labbra. Vaffanculo. Vaffanculo! È un insulto che l'uso generalizzato e frequentissimo non ha reso meno sanguinoso. Riflettiamoci. Comunque vi invito a continuare la lettura di questo manualetto, perché vabbè, a parte che ha tante belle immagini, questo manualetto nello specifico parla del doppio orgasmo maschile. Non so se avremo tempo, anche perché io non ho avuto troppo il tempo di leggermelo, ed è abbastanza, insomma, abbastanza intenso. Potrei leggervi alla fine il manifesto che alcuni studiosi hanno prodotto riguardo a questo. Prima che tu... No, parliamo prima. No, volevo semplicemente dirvi che ci stanno scrivendo sul pad. quindi l'argomento è molto, suscita molto interesse alle nostre entità all'ascolto, ci fa piacere, quindi abbiamo un primo contributo riguardo al culo. L'entità ci scrive che io ho avuto le emorroidi, quindi insomma è una cosa che riguarda direttamente una nostro, di quelle dimensioni anali non il piacevoli, il nostro caro Rifizio, sì. E poi un altro contributo molto scientifico, vi dico solo che l'embrione umano caga e piscia nel sacco amniotico e si ritrova a galleggiare nei propri escrementi, tecnicamente meconio, per tipo 30 settimane. Solo. Una metafora della vita che l'aspetta, insomma. Grandissima, grandissima. Oh, mi sento veramente nel meconio. Posso fare una domanda alle entità partecipanti in questa sala che si definiscono maschili? Ah, ok. A voi entità maschili, cresciuti come tali, come avete socializzati come tali nella comunità sociale, mm-hmm, come avete vissuto il vostro rapporto con il retto all'interno della dimensione sessuale? Diciamo che inizialmente la socializzazione ha fatto il suo effetto, ma se la curiosità lascia intravedere degli spiragli di nuovi piaceri, perché non addentrarsi? Amen, Dracula. Grande Dracula. Beh, che dire, io personalmente ci ho pensato poco, e sperimentato poco soprattutto. Diciamo che ho intravisto nuove prospettive preparando brevemente questa puntata, però sì, non mi ci sono mai troppo addentrato. Dal punto di vista sessuale, nel senso sessuale proprio, nel rapporto con l'altro, l'altra. E a me piace pulirmi il culo dopo che cago, cioè è veramente, cioè io piuttosto non uso la carta igienica, o comunque la uso proprio il giusto, ecologico. E cioè, tanto è carta bianca perfetta che stai buttando via nel cesso, per cui piuttosto c'è un comodo bidet che gli amici francesi hanno inventato. E a me, cioè, io apprezzo avere il buco del culo pulito. Cioè, proprio non sopporto l'idea di cagare e non lavarmi il culo. Infatti all'estero è un po' difficile. Ci sono le salviettine. Non me le sono mai permesse. Vabbè, questa è una confessione. Prendetela come tale. Sì, questa cosa che hai detto la condivido. Quindi quest'ultima cosa, la tua confessione, la prendo e la faccio mia. La diffonderò anch'io. No, anche io personalmente, che dire, l'ho sempre considerata un orifizio importante, delicato e da sperimentare, sì, e a piccoli passi. Solo con persone fidate, forse. O in solitaria. Beh, interessante. Beh, particolare il fatto, però, se ci pensate, che il culo ha questa, c'è questa reverenza nei confronti, cioè uno si trova all'interno di dinamiche sessuali anche molto casuali, appunto, non con persone di cui ti fidi e condividi determinate parti del tuo corpo che sono tra virgolette sdoganate, però quando, certo, si tratta, cioè, una parte del corpo come le altre, però c'è questa reverenza quasi. Una reverenza. E io rigirerei questa domanda anche a voi, entità socializzate come donne, femmine. E qui arriva dal pad subito un'altra domanda molto diretta. Vediamo se riusciamo a dare delle risposte, o perlomeno a dare delle info. Come faccio a farmi piacere il sesso anale? Ai ai ai. Domandone. Passo passo. Voglio sentire che ne pensa Bright. Di la questione di prima. Anche. Del mio culo. Del tuo culo. Io amo il culo in generale, cioè da vedere, da toccare. Poi io ho incontrato tanti uomini che non piace, ma di più loro dice che non piace, ma non hanno provato niente. Come possono dire che non piace? Questa non ho capito ancora, perché loro sono così con questo culo che alla fine, come abbiamo detto prima, abbiamo lo stesso. E loro non hanno questo problema di mettere un dito a me, per esempio, però io a loro diventa ullala. Anche è una cosa strana che il culo delle donne è un oggetto di desiderio. Non lo so, forse un po' troppo, non è equilibrio tra uomini e femmine. Perché anche io mi piace guardare il culo delle altre, cioè donne e uomini. Ma non si parla di bello culo di uomini, senza offensa. Verissimo. E che altro? No, ecco. Grazie, bravo. Sì, davvero. Davvero. Tutte cose molto sagge. Sì. Ma quindi, se il culo ce l'abbiamo, cosa ci gira attorno? Perché attorno al culo gira un universo di zone erogene, le più disparate, le più insospettabili. Ma mi dispiace, penso che è anche una cosa che fa che il culo diventa un po' tabù. Ah, sì, sì. Le fesse. Penso che anche perché per forza c'è il cacà. E questa cosa penso che fa schifo a tante persone, che c'è lo stesso orifizio. Dici che c'è la cacca e quindi insomma un luogo sporco. Sì, chiaro, chiaro, qua si apre tutta la parentesi merda, che veramente, cioè, potrebbe essere la cosa più bella del mondo, perché fa nascere, cioè da lì nasce la natura, nasce la vita dalla merda. E dall'etame nascono i fiori. Esattamente, noi la snobbiamo parecchio, no? Cioè siamo abituati proprio a farla scendere, nasconderla in una pozzetta d'acqua e non guardarla nemmeno, non giudicarla neanche per un secondo, neanche apprezzarla, dire grazie culo e niente, apri la finestra e schiacci il tasto per farla andare via più lontano da te possibile. Non sai dove. Nessuno sa dove finisce la propria merda, a parte la gente che spurga. O chi la fa all'aperto. O chi la fa all'aperto. Allora, io ero curioso di sentire l'opinione di Gengè sulla questione culo. Perché voglio chiedere scusa alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sì. Ho voluto correre sull'argomento. No, in effetti ci sono già 50 minuti che parliamo di questo, ma per me è perfetto. La mia opinione sulla questione culo. generale. Sì, sì, sì, come te la vivi, cosa... insomma, finire un po' questo giro, no? Io, in quanto entità socializzata nel femminile, ho assorbito dalle persone che avevo attorno un po' questa, appunto, affrontare la questione del culo come una questione da affrontare, no? A parte rispetto al re, cioè c'è il sesso e poi c'è il culo, che si fa con il culo, si fa, non si fa, ma tu lo fai, ma allora... Ma tu culi? Ma tu culi? È un po' questo passaggio, no? È una cosa molto volgare, non mi piace molto, ragazzi, mi piace molto, però tu gli hai detto il culo, esiste questa dinamica. È come se fosse tipo uno step da raggiungere. Super Mario supera il livello del mostro finale, accede al culo. E allora lì è fatta. Sì, è vero, è vero. Io l'ho vissuto tante volte così. Succede, è assurdo. Succede. Io personalmente l'ho vissuta come una delle esperienze che ho esplorato negli anni, nella sessualità. Ho fatto con una persona con cui esploravo anche in generale tante altre cose. Quindi è stato naturale fare anche quello. E da lì mi è piaciuto molto. E quindi quando capita, bello. Let's go. Let's go. Infatti è importante sentirsi sempre a proprio agio. Assolutamente. In qualsiasi esperienza. Abbiamo da rispondere ancora alla domanda di prima del come faccio a farmi piacere il sesso anale. E poi sì, un altro contributo sempre dal pad, se vogliamo rimanere sulla parentesi merda che il reverendo ha magnificamente aperto. Quindi sulla parentesi merda, incredibile come il sesso anale sia visto come qualcosa di sconcio e sporco, magari proprio per questo, dimenticandoci che è totalmente naturale che ci sia la merda nel culo, troppo abituati ad un sesso perfetto e pulito. Molto vero, molto vero. Questa... Ma vabbè, anche... cioè... io penso subito a no, questo concetto del sesso pulito, cioè mi viene subito l'immaginario pornografico, cioè in cui ci sono questi attori perfetti, scultori, che fanno tutto in una maniera estremamente calcolata e le cose sconce, cioè i liquidi sono calcolati anch'essi, cioè... Boh, non lo so. A me sì. Richiama questo immaginario qua, ecco. Poi ci sta che nell'intimo le cose che ti fanno più godere sono anche le cose più sporche, tra fluidi vari e sostanze che non ti aspetti. No, è palese la finzione, no? In questo che racconti te, così come c'è finzione nel concetto di perfetto e di pulito, cioè sono due concetti che non esistono, secondo me, diciamolo. E vabbè, non troviamo risposta come farsi piacere il sesso anale. Ci vuoi dire qualcosa, Bright? Qualche suggerimento magari? Come farselo piacere? Penso che Non c'è un modo proprio per piacere. Forse le prime volte non sono tanto simpatici, cioè da prendere piacere. Mm-hmm. Poi se davvero vuoi piacere, prova di nuovo. E se ancora non ti piace, forse non è per te e non è un problema. Non lo so. Per capire anche cosa ci piace, cosa non ci piace. È bello di provare. Sperimentare anche in solitudine. Sì. Come alla sessualità molto spesso ci si approccia con la masturbazione. E sperimentare anche il nostro culo. Per prenderne confidenza, sentirci nel nostro corpo. E ogni lato. Ah, hai ragione. Di provare prima forse può essere una bella soluzione. Da sentire il suo culo prima che un altro corpo senza il tuo. Certo, certo. Anche perché in questi casi mi viene sempre in mente che la linea che divide il dolore dal piacere è molto confusa. Questo penso non solo quando si parla di retto. No, in generale, sì, in generale. In generale. Però appunto, essendo... cioè che a certe persone piace, a certe non piace, magari tenere in mente anche questa cosa qua può aiutare. E anche forse di provare senza essere serioso, cioè, di essere un po' più tranquillo con questa cosa di culo, di buco, no? E... sì, non è un risultato da raggiungere, è una meta... Sì. È provare, sbagliare. È una roba provare. Come un'altra, la conoscenza di sé. Secondo me questa cosa è legata tanto al vivere il sesso in modo performativo. Cioè il fatto che anche quello che dicevi della linea tra il piacere e il dolore, secondo me la riconosci quando non sei nel momento in modo performativo e quindi non devi arrivare a quella posizione, devi farlo per 5 minuti, non per 5 secondi. Devi far venire 6 volte qualcuno. Se sei lì nell'ascolto, magari fai una cosa, poi non ti va, ne fai un'altra, cambi e c'è anche la tranquillità della comunicazione. Però se stai performando una scaletta che hai in testa, magari lì ti ritrovi nel dolore, però non lo dici neanche. Tutto molto vero. Illuminato. Allora, io prima di passare alle zone erogene, che ci si spalanca un altro mondo, io forse metterei un pezzetto, perché sì, stiamo parlando da un po'. Dilettiamoci. Appena lo trovo. Con cosa ci delizierai? Non so se andare subito con Cardi B. Forse il mood è ancora un po' troppo soft. Scendiamo più in profondità. No, allora niente, io c'ho dei... io continuerei con questo funky jazz. Vai. E vediamo dove ci porta, vai. World up. Thank you. not contagious what I'm feeling, but I hope you recognize what's right before your eyes. Oh, your heart should realize from the way I'm dealing. Baby, I'm trying to show you that I love you. Baby, I'm trying to show you that. Ho sbagliato così, ho sbagliato su MixXX. Si vede che è da un po' che non facciamo la radio, eh. Scusa, scusa Dracula, non ti abbiamo fatto finire il tuo sigariglio, è andata così. È un vizio. Va bene, siete sempre su Radio Wombat, radiowombat.net. Ci trovate su frittole@gattini.ninja se volete mandarci una mail, oppure andate sul sito di Wombat nella sezione contatti, c'è il link al pad per scriverci in diretta. Poi troverete questa e altre fantastiche puntate sul sito nei podcast. Stiamo parlando di culi finora, e sappiamo che le persone all'ascolto si sono dileguate, erano 8, ora sono 6, erano 9, ora sono 6, per cui 5, mannaggia. Salutiamo il caro Palmiro, che penso che sia rimasto scandalizzato da questo. No, non è vero, sarà solo andato a cena. E niente, abbiamo parlato di culi fino ad ora e volevamo andare un attimo avanti, giusto? Volevamo giusto dire che cos'è, che cosa sono le zone erogene, perché vuoi rintrodurre il macro argomento? Perché se il culo è ciò che abbiamo tutti in comune, e attorno al culo girano universi, galassie di zone erogene. Assolutamente, assolutamente. E cos'è una zona erogena? Wikipedia ci dice che è un'area del corpo umano, spesso un organo, parte di esso, la cui stimolazione esterna è legata all'eccitazione e al piacere sessuale. Tutto chiaro? Viva, viva. Vivissima. Letteralmente erogeno significa che genera amore. Che bello. Non te l'aspettavi. Amore come Eros. E si riferisce appunto alla proprietà della zona in questione in grado di procurare piacere sessuale. E niente, siamo ancora alle zone erogene comuni, che sono nel corpo. Nel corpo. Le zone erogene comuni sono i genitali, la cui stimolazione anche breve provoca sensazioni di eccitazione sessuale e piacere. Poi vogliamo dire quali sono i genitali? No, vabbè, sono quelli. Però vabbè, non fermiamoci lì. Altre zone erogene sono i capezzoli, i seni, l'ombelico e il collo. Altre zone erogene sono legate per lo più all'esperienza individuale e alle preferenze. Quindi possono essere zone erogene anche la zona perianale ed altre aree particolarmente sensibili del corpo, come il retro delle ginocchia, l'interno cosce e la punta del gomito. Ciascuno piace essere stimolato. Quella volta in cui vi siete eccitati quando qualcuno vi ha sfiorato il gomito. Professor? Yes, dear. Un soffio all'orecchio. Quei brividi sull'autobus. Qua ci dice che il punto G sarebbe una presunta formazione anatomica posta nella parete interna della vagina, la cui stimolazione profonda provoca un piacere intenso, talvolta l'eiaculazione femminile, fra parentesi squirting, vabbè, di cui tuttavia la quasi totalità degli studi scientifici smentisce l'esistenza. Poi magari ne parleremo anche di questo. Esperienziale. Che pagina di Wikipedia sommaria. Nel maschio si parla invece di punto L, che corrisponde alla prostata, ghiandola dell'apparato riproduttore maschile, palpabile internamente a circa 5 cm dall'apertura anale e stimolabile anche dall'esterno tramite pressione sul perineo. Insomma, Wikipedia ci dice che sono queste le zone erogene, ma c'è un grande ma. C'è un grande ma. Perché si spalancano universi queer di preferenze e stimolazioni. Vedi, corpi. Corpi non umani. Concetti. Parole. No, io leggerei quel trafiletto sul... sì. Genere, sul genere sessuale. No, più che altro sull'intersessualità. Sull'intersessualità, chiaro. Perché è una breve introduzione. A proposito di genitali, che non sono solo quelli che comunemente pensiamo. Diciamo, dare dei cenni storici. Il modello a due sessi è molto recente. Diciamo che con la rivoluzione scientifica e una razionalizzazione dei corpi è diventato centrale questo modello a due sessi, ma per tutta l'antichità diceva un modello monosessuale che metteva la donna al livello più basso, l'uomo al livello più alto e tutte le sfumature nel mezzo, che per quanto fosse misogino come modello dava un'interpretazione più accessibile di tutte le intersessualità, più coerente alla realtà, Coerente alla realtà, è sempre dettato da un modello sociale, perché dall'alba dei tempi della civiltà il concetto di sessualità e di generi è sempre stato subordinato a un modello sociale che normalizzava certi comportamenti piuttosto che altri, A secondo della loro utilità sociale. A secondo della loro utilità sociale, esattamente. E, l'intersessualità nel mondo di oggi molto spesso, intersessualità che vuol dire nascere non in un corpo che non è facilmente identificabile nel modello bisessuale, spesso viene diciamo aggiustata, corretta quando l'individuo è ancora neonato, quindi senza una sua scelta cosciente, ma adattandosi a quello che i genitori e i medici ritengono la correzione più utile al benessere sociale. Ma questo benessere sociale è dettato da un'aspettativa di dover rispondere a determinate domande di fronte ai coetanei e del poter performare il proprio ruolo sessuale all'interno della società. E a proposito, possiamo andare a leggere. Siamo qua, ho perso il segno, scusate. Allora, parliamo di psichiatrizzazione della transessualità. Partiamo così, Robetta, a gamba tesa. Andate a leggervi, interessarvi dell'argomento, i cenni storici e tutto quanto. Ci puoi dire che libro? Libro è? Questo estratto lo prenderemo da La società degenerata di Alex B. E compagno che ne sa e ha dedicato parecchie ricerche all'argomento e esperienze dirette. Quindi la psichiatrizzazione della transessualità e il controllo medico operato su di essa servono a incanalarla entro schemi rigidi, a eliminare il potenziale pericoloso e trasgressivo. Il percorso di transizione viene approvato e seguito quando la persona trans dimostra di voler essere assimilata nel ruolo sociale predefinito di uomo o di donna, quando dimostra di mirare alla normalità e all'invisibilità, mentre viene scoraggiato e ostacolato quando invece pone in discussione questi ruoli. L'importante è che restino netti i confini tra uomini e donne, almeno all'apparenza. Per la società è meglio una persona trans invisibile, in tutto e per tutto assimilata nel genere che intende adottare, piuttosto che persone dall'identità o dall'apparenza queer, androgine, crossdresser, che fluttuano tra i generi. La rigidità e univocità del percorso di transizione pongono ancora una volta delle discriminanti, delle esclusioni. Tutte le persone che non si riconoscono in uno dei due generi normativi, maschile o femminile, ma sentono di voler cambiare solo alcune caratteristiche del proprio corpo, utilizzando solo gli ormoni o solo la chirurgia, vengono private della libertà di autodeterminare il proprio corpo. Anche nel percorso transessuale, per quanto sia iscritto nell'ambito della patologia, perché non si può ammettere che sia normale voler cambiare il proprio corpo, valgono le stesse regole prescritte per i generi nel modello sociale dominante. Quindi puoi cambiare il tuo sesso, ti concede la scienza. Solo se sei disposto ad adeguarti a un femminile o un maschile normativo e prestabilito. Quindi o da una parte o dall'altra. O da una parte o dall'altra, certo. Qui stiamo ancora parlando di persone che decidono di intraprendere questa transizione. Se invece, per esempio, sei attratto da sei attratto da persone del tuo stesso genere o da persone queer, non vuoi modificare chirurgicamente i tuoi organi genitali, vuoi cambiare solo alcune parti del tuo corpo, non vuoi cambiare i tuoi documenti, non hai un aspetto ipermaschile o iperfemminile, hai interessi o comportamenti considerati inadeguati, gli psichiatri o i tribunali dello Stato potrebbero negarti l'autorizzazione ad agire sul tuo corpo. Sul tuo corpo come meglio si crede. Qui abbiamo parlato appunto che di violenza. persone che intendono intraprendere questa transizione devono scegliere da che parte stare, sostanzialmente. Tutto lo stesso tipo di procedura normalizzante, ma ancora più violenta, viene protratta avanti dalla medicina nel caso di nascite di persone intersessuate. E qui arriviamo al nocciolo della questione. Infatti si stima che circa l'1,7% degli umani presenti alla nascita caratteristiche fisiche di entrambi i sessi. 1,7. Stiamo parlando quasi del 2% degli umani sulla Terra. E quindi cosa vuol dire caratteristiche fisiche o insomma intersessuale? Può voler dire combinazioni cromosomiche diverse da quella tipicamente attribuita al sesso femminile o maschile, organi genitali considerati ambigui, gonadi miste o ovaie testicoli, uno sviluppo non usuale dei caratteri sessuali secondari. Il termine intersessualità fu adottato dalla medicina del XX secolo per descrivere quelle persone il cui sesso biologico non poteva essere classificato chiaramente come maschile o femminile. Precedentemente veniva utilizzato il termine ermafrodita vagamente. Comunque sono tutte definizioni molto moderne e scientifiche. Comunque, mentre in passato questo tipo di persone era sottoposto al giudizio dei tribunali, con l'avvento della scienza medica moderna nelle società occidentali queste persone hanno cominciato a essere sottoposte alla nascita, alla modificazione chirurgica dei genitali e a trattamenti ormonali per adeguarle a quello che il medico decideva fosse il loro vero sesso. Attenzione. Sia in passato sia oggi la necessità di mantenere l'ordine binario dei sessi e dei generi ha operato in maniera violenta e sistematica nella cancellazione delle differenze, costringendo con la forza chi non rientrava nelle categorie mediche quindi non adeguabile, insomma. Oggigiorno, poiché la maggior parte dei bambini intersessuati viene operata nei primi mesi di vita, la realtà di questo tipo di nascite è totalmente nascosta e cancellata agli occhi della società. Dalla metà del XX secolo la medicina è riuscita a far scomparire letteralmente questi corpi straordinari, spacciando le mutilazioni come la correzione di errori della natura. I famosi errori della natura. Esistono di fatto corpi che mischiano insieme componenti anatomiche convenzionalmente attribuite sia al sesso maschile sia a quello femminile. Se la natura ci offre quindi più di due sessi, significa che le nostre nozioni di mascolinità e femminilità sono di origine culturale. E qui io mi fermerei, andatevi a ordinare, a leggere, penso sia... Si trovi anche, sì, certamente, no copyright, è un libro senza copyright, La società degenerata di Alex B. È illuminante anche sulla storia appunto dei concetti di genere e tutti, insomma, ampliate. Sì, sì, è un argomento molto vasto. E avete qualche osservazione a proposito? Pensavo al fatto che forse nelle persone intersessuali questa è talmente diciamo palese, evidente la loro non appartenenza a un binario, sia a partire da un punto di vista prettamente fisico, che la società sente l'esigenza ancora più violenta, immediata, di correggere, tra virgolette, perché poi appunto si parla sempre di eccezioni a delle regole che però appunto sono totalmente normative e i famosi errori della natura. La natura è natura, insomma, non considera le eccezioni, c'è solo quello che succede senza giudizi sopra. Invece nel caso della società i giudizi vengono applicati alla realtà e quindi ciò che non è norma diventa deviazione e deve essere corretta. E nel caso delle persone intersessuali questa cosa è mega violenta sui loro corpi e passa totalmente la loro libertà di autodeterminazione e di scelta nei confronti dei loro corpi, però è una cosa che io penso comunque subiamo tutte, cioè in maniera più sottile, in esperienze diverse, ma questa mancanza quasi totale di potere di autodeterminazione sul proprio corpo, e che questa paura nei confronti della deviazione da una norma che in realtà non esiste. Io penso che la sperimentiamo un po' tutta. E a proposito di libri sull'argomento, la nostra entità d'ascolto sul pad ci consiglia questo libro, Middle Sex, di Jeffrey Eugenides, aiutatemi alla pronuncia, Jeffrey, non lo so. Eugenides, è scritto così, Jeffrey Eugenides, che parla proprio sarà di greco. Un caso di bambina intersex, molto bello. Quindi grazie del consiglio e... Sì. Segnatevelo, Middle Sex. Vorrei aggiungere solo un'ultima considerazione a questo argomento, che molto spesso queste operazioni comunque vengono operate secondo la facilità dell'operazione stessa. È molto più facile togliere che aggiungere. E quindi c'è sia il condizionamento giusto sociale di dover far rientrare in una norma questo neonato, una norma binaria, una norma comunque, binaria, che è quella di cui parlavamo prima, esatto. Sia poi la scienza volendosi anche proporre come risolutrice o comunque questa chirurgia risolutrice di una problematica che si pone quanto tale, si scontra contro i propri stessi limiti di operabilità. Questo ne aumenta la violenza, perché è cieca, è una specie di, come dire, la banalità del male, no? Certo. Di dover operare delle decisioni e poi doverne anche dover anche fare i conti con la fattibilità tecnica e che è un requisito di per sé, cioè dover fare per fare una, sì, è come una macchina che va avanti da sé, un pregiudizio che ha tutte le sue conseguenze e viene portato avanti ciecamente con qualsiasi mezzo possibile. Certo. Pregiudicando lo stesso piacere delle persone che subiscono un intervento del genere, perché può comportare non provare più piacere, che alla fine è quella lì. Tornando all'argomento centrale di questa puntata, che è il piacere. Lo disse anche Karl Marx, la più alta funzione del corpo è l'attività sessuale. È la serie che sbatta si prendono per fare delle cose che nessuno gli ha chiesto. Ma io segnalo anche un'altra lettura che si chiama Cosa vogliono dai nostri corpi, sempre dal blog anarcoqueernoblogs.org, e sempre leggendo l'introduzione, e insomma parla un po' di quello che stavamo dicendo ora, cioè che sin dagli albori l'umanità ha convissuto con la variabilità sessuale e ogni società deve trovare il modo di rapportarsi ad essa, anche se spesso fallisce miseramente, perché ad esempio nel nord industrializzato del mondo la disciplina e il controllo della variabilità sessuale sono coincisi interamente con la costituzione di una rigida divisione tra modello eterosessuale normale e modello omosessuale, quindi anormale, pervertito, quindi tra sesso maschile e sesso femminile. E ciò è stato consacrato da chiese e stati ed è stato sostenuto dal sistema educativo, dalla medicina, dai servizi di assistenza sociale e dal pregiudizio popolare. E mentre in altre aree del mondo, in alcuni periodi della storia dell'umanità, gli individui non conformisti hanno goduto di un notevole grado di accettazione sociale, mentre in altre sono stati cancellati anche dalla memoria. Comunque, a prescindere da questo, esistono alcune caratteristiche comuni pertinenti alla regolazione e al controllo. Esse riguardano di solito la sessualità maschile, che subordinano in genere la differenza sessuale ai valori tradizionali, quindi solitamente condannare coloro che non sono conformi alle norme culturali vigenti, mentre oggi si riscontra una novità coloro i quali un tempo erano regolarmente ignorati dalla storia vi stanno facendo irruzione. Per fortuna dagli anni 60 esiste un movimento gay e lesbico organizzato a livello globale, spesso diviso tra il desiderio di inclusione, con la richiesta di diritti civili che li equiparano giuridicamente agli eterosessuali, e quello di rottura, come dimostra il diffondersi delle teorie queer. E qua ci dicono anche che la politica queer emerse dalla fine degli anni 80 e si sviluppò nel corso dei 90 e si è caratterizzata come reazione ad un'angusta politica dell'identità e a categorie troppo rigide. Quindi la politica queer ha costituito una sfida al pensiero tradizionale e la sfida definitiva verte sul rifiuto dell'oppressione di genere, sulla messa in discussione dell'unità, stabilità e utilità politica delle identità sessuali di genere, comunque esse vengano usate e assunte. Insomma, è un discorso estremamente ampio che potremmo, insomma, forse prima tanta si diceva carne sul fuoco. Sì, mentre non eravamo in diretta si diceva forse dovremmo fare anche una seconda puntata su sta roba perché è davvero tantissima. Lanciateci spunti se vi interessa l'argomento, se vi interessa che si ampli. E lanciate spunti di riflessione, lanciate letture e... assolutamente e nulla, poi adesso faremo anche qualche esempio legato un po' alla teoria, la teoria gender queer, andremo un po' nel a ficcare le mani in pasta in questo gran calderone di universi, galassie, preferenze sessuali, gattini e cuscini. Dai, niente, alziamo un po' il tono di tutto questo e mettiamo Cardi B, per favore, cioè. Una che le preferenze sessuali ce le ha ben dalla chiaro. Panchina approvano. I said certified freak, 7 days a week, wet ass pussy, make that pull out game weak. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kegel, what is inside? Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's roleplay, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. Out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quick, yeah. Jump out for you, let it get inside of me. I tell him where to put it, never tell him where I'm about to be. I run down on him before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. While you really ain't never got him fucking for a thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a Henny drink, I need a weed smoke. Not a garden snake, I need a king cobra with a hook in it, hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard, well I'm tryna wet it. I let him taste it, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go. I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head can misfire, punani the sunny. It's going and drying, it's coming outside. Yeah, I run on that thing, the cops behind me. I spit on his mic and I heat tryna sign me. Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy. Huh. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. There's some Siamo in onda? Cazzo. Dottorio. Dottorio. Dracula. Finita. Ci hai smutato nel momento sbagliato. Si era scaldato lo studio. Thank you, Cardi BB. Sì, stiamo sperimentando i nostri punti erogeni. Torniamo a bomba. Di cosa dovevamo parlare? Io mi sono già scordato con questo. Beh, degli universi queer erogeni. Queer erogeni. Sì. Preferenze, inclinazioni. Sì, parliamo. Quali sono i vostri punti erogeni, ecco, preferiti? Dice. Così, veloce. Ah, il collo. Collo tantissimo, e sfiorare in generale la superficie esterna del corpo, risvegliare. Io tutto il mio corpo può diventare una zona ecco, dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende il feeling, no? Il fuego. Però ho capito che tutto può diventare zona erogena. Ah. Per me. Yeah. Penso sia l'approccio giusto questo. Allora, l'emotività. L'emotività può essere, sì, una grande zona erogena. Oh, che romantico, Dracula. Sì, sono una serie di universi da esplorare che ti arropano, sì, anche solo nella testa e nel feeling. Filosofia anche... recitante. Allora, per me, se dobbiamo parlare di corpo, vabbè, zona inguinale sicuramente, ma ci sono comunque i fianchi intorno alle chiappe, tra fianchi e chiappe. E poi, vabbè, tutto quello che riguarda la bocca e la saliva. Absolutely. Speed mamma. Per me tantissimo collo pure, dietro del collo, la bocca, tutto quello che fare con la bocca, con la faccia, la schiena. E le orecchie? Orecchie anche. L'orifizio acustico. Collo, orecchie, labbra, pancia. Pancia, basso ventre, fianchi. L'orifizio ombelicale, grattini. E cell anche. Le shell. E cell. Per non parlare di cosa eccita nel parto. Cosa mi eccita stimolando il partner, ad esempio i piedi del partner, importante. Cosa ti eccita eccitando? Cosa mi eccita eccitando? Assolutamente. Non perdiamoci in fantasie. Sì, qua stiamo zitti. Qua stiamo zitti perché secondo me ci stiamo facendo tutte le nostre scenette, sì, mentali. Sì. Sta volando, ricordi. Fa caldo, leviamoci i giubbotti. Anche prima di entrare in onda, così a gamba tesa, ci siamo sfolciati un po' wiki LGBT. Ah, sì, sì, sì, sì. Esplorando definizioni nuovissime, alcune definizioni sfornate nel 2021. E si sta continuando ad aggiornare il mondo queer. sconfinando giorno dopo giorno i mondi del piacere, della diversità di inclinazioni e di godere di questa vita che, per quanto ci dice la scienza, ce n'è una. Che noia, che barba, che noia. Ma sì, noi abbiamo cliccato su un po' di pagine a caso e non lo so, voi sapete che cos'è, per esempio, ora mi si impalla il computer, cos'è una bro spike? Iniziando le robe difficilissime. No prof, non la so bro questa spike. Illumina. È quando quando l'orientamento di qualcuno solitamente non è mutevole o fluido, stiamo parlando di orientamento sessuale, sessualità, ma quando ha improvvisamente dei picchi intensi di abrosessualità o cambiamenti fluidi. E questi spikes, questi picchi sono solitamente molto corti. Questo termine è stato coniato il 15 ottobre 2021, tipo ieri l'altro, però ha senso, cioè in effetti. E l'abrosessualità, cioè l'abrosessuale, si riferisce a un individuo la cui sessualità è mutevole o fluida, per cui uno può cambiare tra tante sessualità, quindi monosexual, multisexual, allosexual o asexual spectrum, eccetera. E il genere di una persona da cui si è attratta solitamente cambia, e l'intensità di questa attrazione o il modo in cui questa attrazione c'è può cambiare allo stesso tempo. E per esempio uno potrebbe essere gay un giorno e poi asessuale il giorno successivo e poi polisessuale il giorno successivo ancora. Quindi per alcuni il cambio può essere erratico e per altri può essere regolare, e alcuni individui abrosessuali possono essere fluidi tra loro e avere un largo numero di sessualità, mentre altri possono essere fluidi solamente tra alcuni tipi di sessualità, per cui a causa della loro incossistente attrazione alcuni individui abrosessuali possono non sentirsi, come dire, obbligati a cercare una relazione, qua stiamo parlando di relazione sessuale, e possono preferire una waivership. Questa waivership io non so che cosa sia, ora ce la possiamo andare a leggere. E comunque, se andate, cioè tutto questo per dire che se voi andate su lgbta.wikia.org trovate un universo infinito di bandiere e definizioni queer, della galassia queer. Che dire in tutta questa storia? Citiamone altre. Per esempio ci sono le cosiddette persone arduette, ci sono le persone sapphic, c'è lo xenogender, per esempio, che è un gran cappello. Potremmo parlarne un attimo, sì, dello xenogender, che prima ci interessava. È un termine ombrello per coloro, per le identità non binarie. E si riferisce comunque al genere, che insomma è un termine, cioè per queste persone, per queste identità non si possono come dire descrivere pienamente associando, cioè riferendosi a concetti solitamente usati per descrivere il genere, come maschio, femmina, uomo, donna, mascolinità, femminilità, neutralità, eccetera eccetera. Quindi solitamente coloro che si identificano xenogender possono essere meglio descritti nella relazione attraverso le cose, esseri viventi o concetti che il più degli individui non pensano possano avere a che fare col gender, quindi col genere, quindi gli animali, le piante, le cose o i concetti. Questa è una cosa veramente interessante. Quindi a volte il ramo del lago di Como. A volte può essere descritto come un genere che non può essere contenuto da un sappy understanding, che non so cosa voglia dire gender. Quanto poco ne sappiamo. Davvero. E l'opposto dell'oxenogender è androgender. Lo leggevamo prima. L'androgender è invece un termine sempre ombrello che si riferisce a tutti quei generi che si possono descrivere meglio riferendosi a cose un po' più, come dire, vicine al nostro concetto di genere, per cui uomo, donna, maschio, femmina, eccetera. Esempi di xenogender, scusate, me lo son perso. Esempi felini. Sì, avevano trovato i cat. Unicorni. Avevano trovato i cat gender. Avevano trovato i cat. Allora, per esempio, esempio di cat gender è uno cioè lo xenogender è il cat gender, è un esempio di xenogender in cui uno si sente, una persona si può sentire estremamente connessa a gatti o altri felini o altri felini, oppure si può identificare fortemente con loro, o semplicemente li vorrebbero incorporare dentro il proprio genere per comprendere meglio la propria identità. Questa categoria è stata creata prendendo di riferimento la categoria dei neurodivergenti, degli individui neurodivergenti, e qui si aprirebbe un'altra parentesi che si associa solitamente a problemi di tipo psichiatrico, e anche a individui che possono avere l'esperienza di delusioni delusions relating to being a cat o altri felini. Vabbè, comunque chiunque. Sono un po' confuso. Sì, abbastanza. Chiunque si può definire cat gender, ecco. Ci si può definire cat boy, cat girl, non binary, un sacco di altre cose. E ci sono anche delle sottocategorie, cioè che può essere un meo gender quando ci si connette ai gatti adulti, un Mew gender quando ti connetti ai gattini, un kitty gender quando, vabbè, ci sono, c'è anche il pur gender che non l'abbiamo aperto. Comunque c'è tantissima roba, cioè fondamentalmente il succo di cioè che tutto quello che ho capito su LGBT a Wiki è che fondamentalmente c'è uno spettro enorme di genere e puoi avere più generi che hanno tutti un sacco di definizioni strane, hai un sacco di sfumature di attrazione emotiva, sentimentale o non emotiva, non sentimentale, perché puoi anche non provare emozioni, puoi anche non provare sentimenti nei confronti di qualcosa, di qualcuno, e poi attrazione sessuale o non attrazione sessuale nei confronti di qualcuno o qualcosa. Per cui diciamo che queste tre cose, genere, emotività e sesso, si mescolano costantemente, continuamente, in maniere incredibili che noi ignoriamo. Che noi ignoriamo completamente, ma la cosa interessante è che c'è una comunità che fondamentalmente si sta sbattendo per dare un nome a tutto questo. Sta mappando le divergenze. Sì. Io avevo altri esempi, tipo lo spettro aromantico, che insomma si capisce già abbastanza, in cui uno non prova un'attrazione romantica nei confronti di qualcosa o qualcuno. Però cioè davvero sono tantissime, tipo anche solo nella pagina della sessualità, cioè ci sono 722 pagine per i gats. Cioè allora Neptunic, Uranic, Omnisexual, Vincian, Achillean, Pomosexual, Cupiosex, Sifaet, Enbian. Cioè non lo so, aiutami dottor io a leggere tutte queste cose. Aventurian, Autosexual, Bigeninic. No, sono tantissime. Interessante era il caso. Sembrano le categorie di un porno queer. C'è anche Bueno Sexual. Leggicelo. Mi si sta impallando il computer. Avevamo trovato il cartosexual, che è una fiction sessualità in cui uno si sente quasi esclusivamente o quasi esclusivamente o esclusivamente attratto da cartoni o caratteri dei fumetti. Quindi qualcuno che è cartosessuale può scoprire di essere solitamente attratto da appunto cartoni e personaggi dei fumetti piuttosto che da individui veri. Fondamentalmente questa categoria è nata a novembre 2020 per opporsi alla categoria dell'animate sexual, che penso si riferisse di più agli anime veri e propri, per cui... Se perché qualcuno preferisce Bugs Bunny. Esatto, è giusto perché prenderne... discriminare. Io volevo leggere cos'è il bueno sexual. Ma no, ho iniziato a fare in un certo punto, non mi ricordo dove, penso in Germania, tipo di casa chiusa, che adesso sono più vera persone, però persone, cioè, pupazzi. E c'è anche queste cose dei pupazzi? No, hai detto puppets? Sì, cioè sono sembra donne, ma sono di plastica. E c'è anche queste cose di cartoni che sono facendo queste cose. È un po', cioè, tante questioni a proposito di queste case di plastica, ma ok. Chi non ha mai fatto fantasie su Doraemon, per esempio? Chiediamolo. Allora, ho scoperto cos'è bueno sexual. È un termine usato per descrivere gli individui che vorrebbero essere, che vogliono essere attratti da un determinato genere, anche se correntemente, cioè nel momento attuale, non sono attratti da questo genere. Quindi possono essere già attratti sessualmente da un certo genere, ma vorrebbero fortemente essere attratti da un diverso genere. E qua ci dice anche che individui che sono performativo. Individui che sono sia eterosessuali che eteroromantici non possono essere buonosessuali. E poi abbiamo altre cose bellissime. La waivership, di cui vi parlavo prima, è una forma di relationship dove il tipo esatto di relazione cambia. Di relazione. Per esempio, un giorno la relazione potrebbe essere romantica, il giorno dopo potrebbe essere queer platonica, quindi un legame platonico tra le persone. Poi potrebbe diventare una soft romo relationship, che non so cosa voglia dire soft romo, un altro giorno. Romantico in modo non estremamente intenso. Ci sta, sicuramente. E niente, quindi magari un partner è una parte di un sistema, o può essere una parte di un sistema, oppure plurale, oppure uno o più partner sono Aroflux o Aceflux, uno o più partner sono Grey Romantic o Sexual, o Queer Romantic, cioè Sexual, quindi Queer Sexual, Quiro. No, vabbè, mi sto perdendo sta tantissimo. Complicato. Poi devo anche tradurre dall'inglese. Sto parlando troppo, forse. Mi viene una questione, perché c'è tante cose diverse e anche tu ti perdi, che noi non è, cioè, di avere tutte queste cose, non è in un certo punto di diventare anche più chiuso, in senso perdere una libertà di possibilità di fare tutte queste case categorization, di fare queste box per ogni tipi di tipo di sessualità, di attrazione sia sessuale che emotiva. Sì. Che... posso capire che abbiamo tutti bisogno di essere con persone che hanno le stesse desire, Però mi viene questa questione di... Sì, quanto la definizione sia un limite. Perché siamo obbligati di dire, di mettere un nome su tutto, oh, così. Forse è sempre una richiesta di legittimazione per essere accettati da una società che ha bisogno di un inquadramento, di una categoria per dire esiste. Per chi siamo. Mm-hmm. E anche questa è una tendenza moderna della definizione, anche il termine omosessuale è recente. Nell'antichità appunto abbiamo esempi di pederastia o di sodomia, ma sono legati ai comportamenti. C'è un comportamento sodomita, il concetto di omosessuale come identità è molto recente, e quindi un omosessuale lo è per natura. Ma se ci scardiniamo da questo concetto, appunto si apre questo ventaglio di comportamenti che può essere interessante andare a categorizzarli, ma appunto questa fioritura di mille nomenclature diverse ci mostra quanto alla fine tutto sia fluido. Sì. E conta stare bene, conta prendersi la responsabilità di autodeterminarsi e la libertà di provare piacere o comunque sì. Amen. Certo. Sì, a me tutto questo sembra tanto un atteggiamento americano alla questione. Infatti ogni singola pagina che vi ho letto finora c'ha proprio la sua bandiera, il suo logo, è proprio, cioè, abbastanza identitaria questa cosa. E non lo so, a me, cioè, io capisco, condivido quello che dite voi, però mi sembra... Cioè, io in questo momento apprezzo questa wiki, apprezzo questo sforzo, in quanto non ci vedo tanto una volontà di essere, come dire, riconosciuti, quanto più una voglia di esplorare il possibile. E quindi sicuramente esplorare il possibile senza dargli un nome è molto, insomma, è molto intenso ed è molto bello, e devi davvero essere aperto mentalmente e avere anche un sacco di tempo per provarci e per pensarci a queste cose. E secondo me avere degli strumenti, per esempio questa wiki che ti mette nero su bianco quello che le persone provano o non provano in termini sessuali, emotivi, di genere, eccetera, secondo me perlomeno a me fa allargare tantissimo i miei orizzonti e mi fa pensare a un sacco di cose a cui non avevo mai pensato prima. E niente, tutto lì mi fa molto piacere, cioè secondo me può aiutarci anche ad allargare i nostri orizzonti, e chiaramente poi le definizioni per me trovano il tempo che lasciano, ma questo in tanti aspetti della mia vita, non solo in quello trovano sessuale, il tempo che lasciano. Lasciano il tempo che trovano. Sì, addentrarsi nell'impensato. Sì, mi sembra più questo tipo di sforzo, capito? Sì. Secondo me questa cosa è legata molto... Sono d'accordo sul fatto che è una cosa molto americana, perché in generale secondo me è legato molto alla tendenza della cultura occidentale, capitalista, alla quale l'Italia è assimilata dal punto di vista, cioè dalla parte americana, chiaramente, per chiare influenze. La tendenza di vivere in modo concettuale, non istintivo, e quindi necessariamente di conseguenza anche ciò che riguarda l'identità diventa... si adegua al bisogno di concettualizzare, e sì. Quindi ho bisogno di parole per esprimere, per vivere, per identificarmi, perché le parole e i concetti sono quello di cui lo strumento principale per fare qualsiasi cosa nella nostra società è tutto concettuale e concettualizzato. Sì. Quindi andare in una direzione del multidettagliato, dell'iperdettagliato, per descrivere un mutamento che è fluido, è imprevedibile, dividere in pixel. Sì. E allora, dopo questa carrellata ci forse dicono... dottor Io voleva leggerci, voleva aggiornarci dal pad. No, no, appunto, giustamente come stavi dicendo reverendo, eri, diciamo, ti lasciava un po' confuso questa carrellata di, appunto, di definizioni, no, di... e di universi, e anche dal pad appunto abbiamo questo feedback di, diciamo, situazione un po' confusa e... però sicuramente come poi hai detto è una piattaforma che può veramente essere utile come modo per pensare a qualcosa di nuovo, no? Estremamente per diverso, esplorare. Per esplorare, esatto. Concettualmente sempre. Vabbè. Preferiamo la pratica, e non a caso le nostre entità all'ascolto passano proprio al lato attivo e chiedono alla Genja il suo numero, il suo numero di telefono. E... un po' entrante. Vabbè, io metterei un pezzettino che sono praticamente e aggiungono, le 9. Aggiungono, sei troppo fica. Con la K però. Con la K, va bene. Prima del prossimo brano vorrei lanciare una domanda a chi è in ascolto. Un'esperienza piacevole che ti va di condividere. Bello. Lanciateci i vostri racconti esperienza brevi. Esperienza sessuale o in generale? È quello l'argomento principale della... Insomma, se ci raccontate di quanto vi è piaciuto il panino di ieri, magari non lo leggeremo. Perché no? Censura. Però se questo piacere... questo piacere gastronomico ha avuto altri risvolti inaspettati... A bigotto! Ne abbiamo parlato finora, cioè... È giusto, qualunque piacere, parlateci del piacere che provate tra due fette di pane. Fare qualcosa. Dai, ci sentiamo tra 5 minuti per i saluti. J'aime le chocolat. Oui, et quoi? Ça t'étonne? J'aime le chocolat. Le chocolat au lait. Mais surtout le chocolat noir. Dense, intense, brut, raffiné. La plongée, j'aime la plongée. Bah oui, c'est vrai, tu ne crois pas? J'aime la plongée. La plongée en eau douce. Mais surtout, la plongée en eau salée. Profonde, sombre, mystérieuse. Mais pourquoi ça? Pourquoi là? Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi. J'aime la crème solaire. Mais non, mais arrête, vraiment. J'aime la crème solaire. La crème solaire sur ma peau. Mais surtout, sa douceur, son onctuosité, ses vertus protectrices. Et puis, le ceviche. Ouais, j'aime le ceviche. Mais non, on n'arrive pas, c'est vrai. J'aime le ceviche. J'aime le ceviche en vacances. Et surtout au soleil, avec un verre de rosé. La douceur de la mer, la fraîcheur d'une nuit d'été. L'hiver, j'aime l'hiver. Bah oui, je sais, c'est pas commun. Tout le monde aime l'été, moi je préfère l'hiver. J'aime l'hiver, mais surtout les feux de cheminée, les remontées mécaniques, les cols enroulés sur ton cou. Mais pourquoi ça? Pourquoi là? Tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Mais tu ne vois donc pas, je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi là? Je crois qu'il ne faut pas, s'il te plaît viens chez moi. Mais pourquoi pourquoi, pourquoi. Mais qu'est-ce que tu fais, tu me suis? Mais pourquoi, pourquoi ça? Mais pourquoi, pourquoi? T'es drôle toi, tu es venu ou quoi? Eccoci, fioccano risposte alle nostre domande. E quindi subito dal pad, grandissime entità, bellissime entità all'ascolto, veramente ci rispondono sul pezzo, sul pezzissimo. Quindi la domanda a cosa, parlateci di un'esperienza piacevole. Quindi sesso orale all'orifizio, immagino sesso orale anale. Meglio di un cappuccino su una nuvola. Bello, yes. Anche il cappuccino su una nuvola è un'esperienza bellissima. Una cosa bella, quindi un'altra. Una cosa bella, io che non amo particolarmente il sesso anale per vari motivi fisici e psicologici. L'ultima scopata è stato piacevole comunque fare sesso e avere dita in orifizi poco sfruttati. Dai. Bello, grazie già. Del contributo. Grande ispirazione. Guarda. Dracula. Scoperta, sperimentazione, scoperta. Dracula può dire. Può ho tutto il mio appoggio a quest'ultima testimonianza. Te dita in culo tutta la vita. In culo. Tornando terra terra. Terra terra. Dai, rispondici alla tua cosa bella. Sì, a parte questa è un'esperienza e non ho avuto molte esperienze sessuali, sempre molto leggere, e però una che mi ha particolarmente divertito, anche perché non sono stato ero un po' troppo fatto per godermela appieno. Comunque è stato andare a casa di questa di quest'uomo un po' più grande di me, un po' più anziano, insomma, e che dopo avermi drogato no, consenziente cioè nel senso che ha offerto okay. Lui sì, mi ha fatto le proposte e ha detto ma perché no, e mi ha introdotto al mondo delle video chat, in realtà, perché interessante. Perché a lui piaceva appunto avere esperienze guardando altre esperienze nello stesso momento, e quindi trovava molto più eccitante le video chat che non un porno con un regista, le luci e tutto studiato, un copione, no? E consiglio appunto il mondo delle video chat sia per esperienze autoerotiche sia per esplorare quei mondi di cui parlavamo prima, perché c'è di tutto, c'è dal dolore autoinflitto, dolore inflitto da altri, a tutto un universo trans, se appunto non avete mai esplorato l'anatomia trans e volete vedere dal vivo come si divertono i trans fra di loro, diverse transessualità, lì potete trovare insomma video dal vivo e con questa persona appunto mi ha introdotto diciamo molto direttamente a questo mondo in un'esperienza anche abbastanza psichedelica e grande. E niente, non ricordo questo momento, un po' col sorriso sulle labbra, insomma, per quanto non si sia poi ripetuto entro breve tempo, ho dovuto fare tutta una riflessione su di me per poi riprendere in mano tutto il materiale che mi è arrivato grezzo così in una sola volta, e fino a questa puntata, insomma, in cui siamo rispolverando assieme vecchie memorie insomma. Pazzesco. Sono sicuro che ci sia una pagina, cioè rispetto a qualcuno che si, insomma, qualcuno che è tipo video sexual o video chat sexual, cioè sono sicuro che, vabbè, niente, ci deve essere una definizione anche per questo. Sì, mi crippa tantissimo. Cioè, andrà a dormire stasera leggendosi tutte le definizioni. 700 definizioni, Domani mattina lo interroghiamo. No, invece ti interroghiamo ora, reverendo, parlaci di Ma te. Io, a me è venuto in mente una volta, diversi anni fa, in cui fondamentalmente ero con una persona e però eravamo, cioè tra di noi c'era una specie di gioco barra situazione relazionale strana, e per cui insomma io non ero totalmente convinto di quello che stavo facendo e fondamentalmente il mio paletto era non farmi toccare, perlomeno non farmi mettere una mano nelle mutande, e però allo stesso tempo io potevo farlo. E quindi insomma c'è stata questa scena di diverse, a me sembrano ore, su un pianerottolo in cui, cioè proprio in mezzo a delle scale di un condominio alle 2 di notte, in cui tutta questa cosa è andata avanti senza baci e senza appunto mani nelle mie mutande, ma con tutto il resto che succedeva in quel momento, totalmente vestiti, e niente, la ricordo come una delle esperienze più eccitanti della mia vita, nonostante appunto a me non sia successo niente, cioè io ero lì e cioè semmai sudavo da ogni singolo poro ed ero immerso in questa nuvola di sesso, ma niente, è stato molto bello, cioè per me è irreplicabile perché c'era davvero alle spalle una situazione romantica di un certo tipo. È irreplicabile. È irreplicabile, sì. Dici, dottore? Io no, non lo so, ora come ora di esperienze, di momenti non me ne vengono, però è più in generale, è una cosa che per me è molto eccitante e molto bella, è avere rapporti in ogni spazio, nel senso uscire dagli spazi classici, canonici, che siano la casa, la camera, eccetera, eccetera. E anzi, è proprio bello, è molto eccitante e stimolante farlo nei posti più disparati, che siano veramente in mezzo alla natura, che siano in mezzo alla città, che siano dietro un angolo di un vicolo, che siano sui mezzi pubblici, tipo i pullman, dove non passa mai, che cazzo ne so, i pullman che fanno dei tratti di provincia dove non c'è mai nessuno. Ah, sì, dove tutti sono girati in avanti. Nei posti in fondo. I treni che non piglia mai nessuno, i regionali, quelli. Insomma, è così, viversi la sessualità, viversi i momenti belli di condivisione in giro per il mondo. Cioè fuori dal letto, intendi? Fuori dalla camera da letto? Sì, fuori dagli spazi canonici, è una cosa, un valore aggiunto che mi stimola molto, mi piace molto. Yes. È una cosa divertente, che ho provato con, beh, da sola, con qualcun altro anche, era con verdure, da non lo so come si dice in italiano, però penso che avete capisce cosa succede con verdure. E allora sì, era divertente di andare al supermercato, di prendere queste zucchine, non lo so, di pensare al cibo, ma anche pensare a altre cose, cioè, e poi, non so, era una cosa bella, un po' di natura. Un'insalata di sesso. Sì, no, non lo so, mi piace anche, mi fa ridere. Ma verdure falliche? Solo falliche o anche di altro tipo? Ho provato aubergine. La melanzana? Ecco, quello era l'unico senza forma fallico. Ho capito. Beh... ci lascia così. Beh, all'immaginazione. Sì. Mandateci le vostre ricette. Perfetto, grazie Bright, speriamo che sia di ispirazione per tutte le entità all'ascolto. Per me invece pure vorrei dire una cosa più sulla scia del dottore, una cosa generale, che più che momenti specifici, dei momenti ultimamente mi sto ritrovando a ragionare molto sulla mia espressione di genere all'interno dei rapporti sessuali e del modo in cui la condiziono a seconda del sesso della persona con cui sto avendo un rapporto sessuale e quanto cado tra virgolette facilmente per comodità in un'espressione di genere più tendente al maschile, quando ho rapporti sessuali con le donne un'espressione di genere più tendente al femminile, quindi i relativi ruoli e quello che succede all'interno dell'esperienza sessuale, sempre perché uno è condizionato dal binario anche all'interno delle relazioni non binarie, perché c'era condizionato al suo interno, e quindi il fatto di essermi ritrovata ad esempio in particolare ultimamente a sperimentare la mia espressione più mascolina anche con delle persone che si identificavano come maschi, ed è stato bello, molto bello. Grazie. Niente, lasciamo andare l'immaginario. Grazie Genge. Non a caso Genge. Si vola con la fantasia. Si fona con la fantasia. E va bene, cioè, per me è stata una puntata veramente intensa, diversa da tutte le altre che abbiamo fatto finora, proprio. Ma non solo per i contenuti, proprio per il trasporto emotivo che c'era. E parte una musica incredibilmente sexy. E si continua adesso, appena spegniamo il canale. Sì. Allora, cosa stavamo dicendo prima? Che sono le 21:16, dobbiamo andare a fare qualcos'altro. Meglio così. Invitiamo le persone all'ascolto a fare altrettanto. Prendete il battello di frittole e venite qua da noi. Che ci hanno supportato in questo percorso, in questo viaggio. Speriamo di risentirci presto. Vediamo se Genge ci darà di nuovo l'ispirazione per fare l'arte del vizio, l'arte del fritto. La prossima volta si parla di olio. Yes. Come può essere utilizzato per distruggere qualsiasi alimento. O oleare orifizi. No, va bene, dai, ci salutiamo con una canzone tamarrissima che ci ha sempre consigliato la nostra Genge. E niente, salutiamo tutti di nuovo, restate in ascolto sulle fantastiche frequenze di Wombat, che adesso parte una trasmissione rubata da delle altre radio. Ebbene sì, alle 9:30 parte un programma di blues rubato da Radio Onda Rossa. Per fortuna prosegue il furto radio. Questo purtroppo non è Dottor Io, che sono al basso. Senti come gode sotto fondo. Yes. Una buona notte, calda notte, calda serata. A tutti, sperimentate. Non ci lascio più andare a casa questo tappeto. Non si può staccare, è troppo serio sto pezzo. A me mi accettano le paste quando vado a far colazione. Mi accettano i croissant alla marmellata. La crema che strabonda. Sacca Porsche. Dimensione erotica della glicemia. Ale, è dopo il climax. Cuando me ve ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo sé Dolce, a veces Bulgari. Cuando te lo quito después de los party, las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis sin cojones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis rincones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré.